2. Il vento comandava l'esercito di fiamme. La città di legno subiva assalti furiosi. Le case sembravano lottare, dimenarsi per non essere prese dal fuoco. Ma il nemico era più forte e in breve tempo le conquistava, le accendeva, le offriva in tributo alla notte finché non crollavano. Restavano colline di cenere. Peter era sbarcato da un solo giorno. Dal Bronx era arrivato a Manhattan, giusto in tempo per vederla bruciare. L'armata di Sua Maestà aveva occupato New York dopo la battaglia di Long Island. I ribelli di Washington si erano ritirati nella nebbia, marciando verso nord, lungo l'East River. O forse no, forse si erano mutati in fiamme. Sul grande prato, al limitare della città, profughi dai visi anneriti contemplavano la distruzione. Avevano scelto di non fuggire, di non lasciare che New York diventasse una città di spettri, soldati e desolazione. Questa era la ricompensa. L'incendio durava da molte ore, si muoveva verso nord e non trovava ostacoli. Il cielo era acceso di bronzo e pirite. Impossibile capire se il sole fosse pronto a levarsi. Tra gli sfollati circolavano notizie. Tutti davano la colpa ai ribelli. Il fuoco era partito da una taverna nei pressi di Whitehall, nella punta meridionale dell'isola, e s'era spinto a nord e a ovest, sull'arido soffio di Eolo, distruggendo ciò che incontrava tra Broadway e lo Hudson. La vecchia Trinity Church non esisteva più. Il fuoco aveva divorato il magnifico organo. Valeva 850 sterline. Alcuni dicevano che i focolai erano stati più d'uno e almeno un incendiario era stato fermato. Aveva brandito un coltello e ferito al braccio una donna, poi aveva avuto la peggio. Il cadavere, appeso per i talloni, doveva essere ormai cenere. Era stato lui a recidere i manici dei secchi? E chi aveva vuotato le cisterne dell'acqua? Chissà quanti avevano congiurato per appiccare l'incendio. Avevano colto la città di sorpresa. Non vi erano più campane per avvertire del pericolo. I ribelli le avevano fuse per farne proiettili. Man mano che arrivavano i profughi, le storie si arricchivano e intrecciavano. La folla aveva spinto altri incendiari, tutti Whig, nelle fiamme che essi stessa avevano attizzato. Giungevano voci di esecuzioni sommarie. Nel rogo di New York il vento sollevava braci che un tempo erano uomini, giudicati colpevoli in un attimo e fucilati, lapidati, pugnalati, calpestati. L'anno prima, dal salone panoramico di Lord Warwick, Peter aveva visto fuochi d'artificio variopinti. La messa in scena di un grande incendio, l'annuncio della guerra che nulla risparmia. Aveva dovuto attraversare di nuovo l'oceano per capire a cosa alludessero quei mastri fuochisti venuti dall'Italia. E adesso era un soldato. Appena sceso a terra, aveva cercato di rintracciare Joseph, senza fortuna. Era salito sulla nave che gli avevano indicato, ma Joseph non vi alloggiava più da diversi giorni. Tutti ricordavano il capindiano arrivato da Londra, nessuno sapeva dire dove fosse. A detta di alcuni aveva combattuto a Long Island insieme agli uomini del generale Howe. Secondo altri, aveva preso parte soltanto alla risalita di Manhattan, insistendo che l'esercito ribelle andava incalzato e raggiunto. Dicerie. Suo zio disseminava leggende dietro di sé come se gli scivolassero di dosso, abiti troppo larghi o ingombranti. Prima del tramonto un ufficiale di marina gli indicò la nave dove alloggiava Guy Johnson. Peter approfittò del poco tempo che gli rimaneva prima della dunata del Cameronian e salì a bordo. Una voce nota rispose ai colpi sulla porta. «Chi è?» «Peter Johnson, signore!» L'uscio della cabina si spalancò sulla sagoma corpulenta di Guy Johnson. «Ragazzo mio, quando siete arrivato?» «Ieri mattina!» Si strinsero forte la mano. Peter notò che quella di Guy era sudata. Il commissario lo fece accomodare all'interno. Lo spazio era poco, in buona parte occupato da bauli e valigie. «Che razza d'inferno! Non avete idea di cosa stia succedendo qui. Ho chiesto di tornare a bordo. Almeno una cosa è certa. Il fuoco non attraversa l'acqua.» Guy spostò un paio di borse e liberò una sedia per offrirla a Peter. Lui sedette sulla cuccetta. «Credete che siano stati i ribelli ad appiccare l'incendio?» chiese il ragazzo. Guy Johnson scrollò le spalle. «Così dicono.» Mosse una mano nervosa verso la bottiglia aperta sul tavolino e riempì due bicchieri. Ne porse uno a Peter, che lo accettò, senza bagnarsi le labbra. «Ho cercato mio zio Joseph, ma non c'è traccia di lui. Potete darmi notizie?» «Non è più in città», rispose Guy dopo aver trangugiato il rum. «È partito da 2 settimane, diretto a Oquaga, credo, dalla famiglia.» «La Croix?» «Partito anche lui, punta su Canajoharie, è tutto quello che so.» Si versò altro liquore. Le colonie hanno dichiarato l'indipendenza. L'entroterra è nel caos. Banditi e razziatori la fanno da padroni. Peter appoggiò il bicchiere e guardò oltre l'oblò che si apriva sulla parete. Poteva scorgere un pezzo di cielo e la lilea scura degli edifici del porto avvolti nella caligine. Faceva caldo, il sudore si addensava sotto la giubba di lana. Pensò ai due uomini in viaggio attraverso una terra ostile. Pensò alla madre, che non aveva sue notizie da mesi. La Croix l'avrebbe raggiunta, ne era sicuro. Si riscosse. Guy aveva domandato qualcosa. «Prego? Vi ho chiesto del vostro reggimento. Siamo aggregati al comando del generale Howe». «Bene, molto bene». Guy sembrò accorgersi per la prima volta dell'uniforme del ragazzo e delle mostrine. Gli concesse un sorriso forzato. «E voi che farete?» chiese Peter. L'altro si rabbuiò subito. «A essere sincero, non ne ho idea». Guy si alzò e guardò fuori, le colonne di fumo che ancora si alzavano a nord. «L'America brucia, ragazzo mio», disse il commissario in tono grave. «Domare questo incendio non sarà un'impresa facile».